Immagina di dover parlare in pubblico di fronte a 500 persone oppure di dover affrontare una situazione che determinerà qualcosa di importante per il tuo futuro. Come ti sentiresti in quelle situazioni? Ci possiamo sentire stressati, a volte impotenti, a volte soggiogati dalla paura, spaventati. Credo che questi momenti e queste emozioni le hai vissute più di una volta, ma sono sicuro che nella tua vita ci sono anche stati momenti invece in cui ti sei sentito forte, fiducioso, padrone della situazione, momenti in cui hai affrontato con forza quell'ostacolo e l'hai superato, oppure momenti in cui sei stato con serenità di fronte a quella persona, le hai detto quello che sentivi senza paura e le hai potuto esprimere i tuoi bisogni chiedendogli rispetto per essi, o quando in quella situazione di emergenza sei riuscito a tirare fuori il meglio di te. Ecco, oggi voglio proporti un semplice esercizio di cui parla Amy Cuddy nel libro di cui ti lascio il link in descrizione. Attraverso questo esercizio, nei momenti difficili potrai ritrovare dentro di te tutta la forza, tutta la serenità di cui hai bisogno per affrontarli. No, non si tratta di una pozione magica o di qualche formula particolare. Ecco di cosa si tratta. Quando ti troverai in un momento in cui sentirai di aver bisogno di una particolare forza d'animo per affrontare un momento difficile, prova a richiamare alla mente quei momenti in cui ti sei sentito particolarmente forte e presente a te stesso. Non intendo forte fisicamente, ma intendo proprio quel potere personale per cui ti sembrava in quel momento di avere il pieno controllo di te stesso, della tua capacità, della tua interiorità, delle tue potenzialità. In quel momento sentivi di avere la fiducia necessaria per agire in modo deciso, tale che sentivi che le tue azioni o le tue parole sarebbero state efficaci. Ti faccio tre esempi per spiegarmi meglio. Può essere stato a scuola, quando magari quel giorno sentivi di essere particolarmente preparato, oppure quella volta in cui davanti ad altre persone hai sentito che potevi dire quella cosa che poi hai detto con grande serenità, perché era una cosa in cui credevi molto e non avevi nessun dubbio a portare avanti, a sostenere la tua opinione su quell'argomento o su quella situazione. O ancora quando in quella situazione di emergenza hai saputo reagire a sangue freddo facendo quello che era necessario fare in quel momento. Ecco, prova a fare questo, non soltanto a ricordare quel momento particolare, ma a ricordare anche quali erano le sensazioni che in quel momento provavi dentro di te. Sensazioni di fiducia, di forza, di serenità, di profonda pace con te stesso. Ecco, se sei riuscito a ricordare quel momento e non soltanto quello che è accaduto intorno a te, ma soprattutto le sensazioni che vivevi in quel momento, dice Amy Cuddy, in questo modo è come se tu avessi programmato il tuo cervello, oppure chiamalo il tuo io profondo o il tuo stato interiore. Dici che è tutta fuffa, che sono cose inutili, che sono trucchetti psicologici di ben poco valore? Eccoti allora una controprova per convincerti dell'efficacia di questo esercizio. Come ti senti ogni volta che ti viene in mente quell'episodio in cui ti sentivi in tutt'altro modo? Ovvero sotto stress, impotente, incapace di prendere una decisione, annebbiato rispetto alla strada da prendere. Ma scusa, se è ovvio che pensando a quei momenti tu ti senti un po' giù, e dentro di te ritornano quelle sensazioni tali da essere quasi presenti anche adesso. Ma allora perché non dovrebbe essere vero al contrario? Cioè che richiamando alla mente gli episodi e le sensazioni in cui ci siamo sentiti invece bene con noi stessi, potenti, forti, con una grande fiducia interiore, perché non dovremmo allo stesso modo trarne un beneficio? E Amy Cuddy riporta anche diversi studi psicologici che ribadiscono l'efficacia di questo piccolo giochetto. sono state prese diverse persone e divise in due gruppi. Ad una parte di essi è stato chiesto di pensare per 20 minuti ad una situazione in cui si sentivano particolarmente a loro agio e ad altri invece di pensare per lo stesso tempo ad una situazione in cui si erano sentiti particolarmente sotto stress e non a loro agio. Successivamente veniva chiesto loro se si sentivano pronte ad affrontare delle situazioni particolari, anche molto semplici. Il risultato penso che l'abbiate immaginato. Le persone che avevano pensato a momenti positivi della loro vita si sentivano molto più ben disposte ad affrontare altre difficoltà con tutt'altro spirito, con tutt'altro entusiasmo e determinazione. Mentre leggevo di questi studi mi veniva a mente che forse momenti in cui ci siamo sentiti particolarmente sereni e fiduciosi sono anche i momenti in cui abbiamo sentito Dio particolarmente vicino a noi, nella nostra vita, in quella situazione concreta. Ecco, io credo che anche richiamare alla mente quei momenti in cui abbiamo sentito di non essere soli, beh, credo che anche questo possa essere un grande aiuto per affrontare quella situazione nuovamente con la certezza che Lui è accanto a noi. Quindi la prossima volta che ti troverai davanti a una prova da affrontare, prova a pensare a quei momenti in cui ti sei sentito particolarmente forte e sii anche certo che Dio è al tuo fianco. Sono certo che non soltanto il ricordo di quegli episodi, ma anche la certezza che Lui è sempre con noi ti aiuterà ad affrontarli nel migliore dei modi. E se vuoi, scrivi nei commenti qualcuno di quei momenti in cui ti sei sentito particolarmente forte. Ti aiuterà anche questo a fissare quei momenti ancor più nella memoria. E magari aiuterai anche gli altri a ricordarli e a trarne forza nel momento del bisogno. E se hai un amico che sta affrontando un momento particolarmente difficile, oltre a pregare per lui o per lei, mandagli anche questo video, magari potrà dargli una spinta in più per affrontare con serenità e con forza quel momento difficile.